Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. No, la Meloni deve fare la mamma. Mi pare che sia la cosa più bella che le possa capitare ad una donna nella vita. Inizia con una certa vivacità questa settimana, almeno dal punto di vista della politica italiana, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché già un po' magari avrete sentito di questa polemica scatenata dalla frase appunto di Bertolaso. Avete sentito, candidato più o meno ufficiale del centrodestra a Roma, perché adesso non si capisce più niente, al quale hanno chiesto, dopo che ha vinto queste gazebarie nel fine settimana a Roma, gli hanno chiesto a fuori onda sulla 7, ma lei ce la vedrebbe come vice sindaca Giorgia Meloni? E lui ha risposto così: Giorgia Meloni deve pensare a fare la mamma. Questa cosa naturalmente, diciamo, insomma, non è che è stata presa bene né da Giorgia Meloni, ma neanche da molti parlamentari, da molti politici, sia donne ma anche uomini, che hanno detto, insomma, è una gaffa. Che cosa significa dire che lei deve pensare a fare la mamma perché è incinta? Ci sono donne che sono capacissime, anzi tante, molte, con molte più difficoltà a fare mille cose insieme in modo rocambolesco, acrobatico, non ne avrete esperienza anche voi o personalmente o intorno a voi. E quindi questa cosa ha suscitato una serie di reazioni. Per esempio la ministra Boschi ha scritto: quando chiederanno a un candidato uomo di ritirarsi perché non telegenico o perché deve fare il padre? Quando succederà questo? Dice: solidarietà alla Meloni, ma anche a Patrizia Bedoni, che è la candidata invece del Movimento 5 Stelle a Milano, che ha deciso di ritirarsi perché dice: non reggo più a questa pressione intorno a me, a questi insulti, mi hanno detto che sono brutta, che sono obesa e quindi basta, non ce la faccio più, mi ritiro. Secondo voi sono ancora così forti, così vivi gli stereotipi nei confronti delle donne in politica? E non solo, ma per oggi parliamo della politica, poi ne parleremo con un'esperta. Vorrei sapere il vostro parere, sia come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso gli SMS al 349-238-6666. Secondo voi continuano ad esserci dei forti stereotipi sulle donne in politica? È vero, come dice per esempio la ministra Boschi, ci sono tanti uomini davvero ben poco telegenici, a proposito degli insulti a Patrizia Bedoni, poco telegenici, diciamo, è un complimento. Voi fate le vostre riflessioni, io come sempre all'inizio vi riassumo la giornata. Siria, Putin annuncia il ritiro delle truppe, obiettivi raggiunti, dice il presidente russo, l'intervento nostro ha ribaltato la situazione. Donne politica, bufera su Bertolaso che dice che Meloni deve pensare a fare la mamma, e a Milano la candidata dei 5 Stelle Bedoni si ritira per gli insulti, mi hanno detto che sono brutta e obesa, e a Napoli respinto il secondo ricorso di Bassolino. Migranti, la polizia ferma centinaia di profughi al confine tra Grecia e Macedonia. Turchia, il governo turco accusa il PKK per la bomba ad Ankara, 11 fermi. Zimbabwe, giallo su due italiani uccisi in una riserva di caccia, forse scambiati per bracconieri. L'omicidio di Giulio Regeni, la procura egiziana dice al procuratore Pignatone, volato al Cairo, tutte le piste sono aperte. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto a 90 anni Riccardo Garrone, autore e doppiatore, il suo volto è noto al grande pubblico per il ruolo di San Pietro in uno spot. Ciclismo, intercettato un detenuto che dice la camorra ha fatto perdere Marco Pantani. Partiamo quindi da questa mossa a sorpresa di Vladimir Putin, che ha ordinato il ritiro della maggior parte delle forze russe dalla Siria, motivando la decisione con l'intento di facilitare i negoziati ripresi oggi a Ginevra tra governo siriano e opposizioni. Il ritiro russo comincerà domani, che è il quinto anniversario dell'inizio della spaventosa spirale di violenza che ha messo in ginocchio il paese, e il capo del Cremlino, citato dalle agenzie russe, ha detto che gli obiettivi a questo punto sono stati raggiunti. Quindi torneremo a parlarne, sia per capire quali sono alla fine questi obiettivi raggiunti e quali potrebbe essere a questo punto lo scenario in Siria. Intanto però concentriamoci sulla politica italiana. Appena detto che diventa un caso l'attacco di Guido Bertolaso a Giorgia Meloni, sfogo anche della ex candidata 5 Stelle a Milano che accusa: mi hanno definito brutta e obesa. Non si può certo definire in discesa la strada di Bertolaso a candidato unico del centrodestra per il Campidoglio. A frenare l'ex numero uno della protezione civile non è solo il nuovo no di Salvini, nonostante il plebiscito ricevuto nelle gazebarie di Forza Italia. A mettere per il momento Bertolaso nell'angolo è infatti la sua contestata dichiarazione sulla Meloni. No, la Meloni deve fare la mamma. Mi pare che sia la cosa più bella che le possa capitare ad una donna nella vita. Bertolaso si difende parlando di assurda speculazione, ma le sue dichiarazioni sono bocciate da tutto il fronte ambiente politico. Spero di essere un'ottima mamma, dice la stessa Meloni, come lo sono tutte quelle donne che spesso in condizioni molto più difficili della mia riescono a conciliare impegni professionali e maternità. Altri attacchi alla Meloni e la voto, dice Marchini. Non è un paese per donne, troppa misoginia, commenta la Lorenzin. Il ministro della Salute cita anche il caso del passo indietro della candidata del Movimento 5 Stelle a Milano. La Bedori nega di aver avuto pressioni da Casaleggio, ma si sfoga e dice: io insultata, mi avete detto brutta e grassa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo nel PD continua lo scontro tra maggioranza e minoranza e Renzi risponde ad Alema. Che Matteo Renzi non avesse accettato di buon grado le critiche della minoranza lo si capisce quando nel primo pomeriggio arriva la Line News, sfida Pierluigi Bersani che l'accusa di governare con i suoi voti e il delfino Roberto Speranza. In sostanza, se c'è qualcosa da dire, spiega il Premier, si può dire in direzione oppure direttamente al congresso del 2017. Il dibattito interno sembra surreale, dice Renzi. Ai miei compagni di partito do appuntamento in direzione, viva le primarie libere e oneste, quelle in cui chi perde ammette la sconfitta e dà una mano. La commissione di garanzia per le primarie del centro-sinistra a Napoli intanto respinge il ricorso presentato da Antonio Bassolino contro la proclamazione dei risultati che hanno visto la vittoria di Valeria Valente con circa 400 voti di scarto. Ma l'ex sindaco non si arrende. Penso di aver vinto moralmente, politicamente e se si fa luce sui seggi contestati anche numericamente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ritorneremo poi su questi temi politici, in particolare però appunto sulla vicenda della frase di Bertolaso, di tutte le reazioni che ci sono state e anche di quello che pensate voi. Questo significa, questa frase di Bertolaso, Meloni deve fare la mamma, che ci sono, continuano a esserci dei pregiudizi nei confronti delle donne in politica, anche il fatto per esempio di dover sempre definire come sono vestite, se hanno il lato B più o meno apprezzabile, come non so, avete visto qualche foto per esempio della ministra Boschi quest'estate. Che ne pensate? 349-238-6666 oppure comodamente pagina Facebook di Effetto Notte. Cambiamo tema, andiamo sui migranti con sempre più disperati di fronte ai muri, alle frontiere sigillate lungo tutta la rotta balcanica. Questo ha indotto oggi centinaia, probabilmente migliaia di migranti e profughi mediorientali a lasciare il campo inferno di Idomeni in Grecia, col quale ci siamo collegati più volte, per aggirare il blocco e cercare nuove vie d'ingresso in Macedonia per proseguire a tutti i costi il viaggio verso la terra promessa dell'Europa occidentale. Azioni disperate dettate dalla frustrazione di chi non è più disposto ad aspettare dietro le barriere di filo spinato. I più, nonostante i tentativi della polizia greca di fermarli, si sono riversati verso il fiume Suva Reka, letteralmente fiume secco che a pochi chilometri da Idomeni segna il confine tra Grecia e Macedonia. Si sono viste immagini di bambini, di donne, di uomini che attraversavano disperatamente questo fiume. E intanto la Germania, nonostante la sconfitta elettorale della cancelliera Merkel dice non vuole modificare insomma la sua linea sui migranti. Angela Merkel non cambia rotta e come sua abitudine prende tempo, ma il suo partito, dopo la sconfitta nelle regionali di domenica, che hanno finito per essere un referendum sulla politica del cancelliere, porte aperte verso i rifugiati, è in subbuglio. Le elezioni in tre Länder della Germania, dove è andato alle urne il 20% circa dell'elettorato tedesco, hanno visto la clamorosa affermazione del partito anti-immigrati Alternative für Deutschland, arrivato fino al 25% in Germania dell'Est e fra il 12% e il 15 nelle due regioni dell'Ovest, ma è stato anche il giorno della delusione dei democristiani della signora Merkel e della disfatta dei suoi alleati socialdemocratici. Il cancelliere ha ammesso che si è trattato di una giornata pesante, ma non ha cambiato la sua linea sui rifugiati, che punta su una soluzione europea e l'accordo con la Turchia. Ma cosa farà la Germania se al vertice dei capi di governo di questa settimana la soluzione europea e l'accordo con la Turchia dovessero saltare? Di certo, dopo il voto di domenica, il panorama politico tedesco è più instabile. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Il fronte della Turchia adesso con la polizia turca che ha fermato almeno 10 persone, 11 in realtà, a Sanliurfa, nel sud-est del paese al confine con la Siria, accusate di legami con i due presunti kamikaze che ieri hanno ucciso 37 persone con un'autobomba ad Ankara. Tra i fermati ci sono anche familiari di almeno uno dei sospetti attentatori. E un altro attentato, sempre ieri, quello che è avvenuto in Costa d'Avorio, dove il numero delle vittime per l'attacco resort è cresciuto. Ci sono anche un cittadino francese ed un tedesco fra le vittime dell'attentato terroristico contro i resort di Grand Bassam. Il numero dei morti è salito a 18, 15 civili e 3 militari dei corpi speciali. I terroristi uccisi sono invece 3 e non 6, come riferito in un primo momento. Sparavano all'impazzata, hanno raccontato 4 molisani scampati all'attentato, che oggi è stato di nuovo rivendicato da Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Le autorità ivoriane hanno proclamato 3 giorni di lutto nazionale, mentre al coro di condanne per l'attentato oggi si è unito anche il ministro degli esteri Gentiloni, che ha messo in guardia dall'instabilità in quell'area dell'Africa. Non dimentichiamo che dall'Africa occidentale negli ultimi mesi viene circa il 70% dei flussi migratori che attraverso la Libia arrivano in Italia. La instabilità e le minacce in quell'area hanno anche delle conseguenze per il nostro paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la vicenda dei 2 italiani uccisi in Zimbabwe. Sono Claudio Chiarelli, di 66 anni, e il figlio di 29 anni, Massimiliano, uccisi ieri all'interno della riserva Manapuls. Claudio Chiarelli viveva da tempo nel paese africano dove era nato suo figlio. Entrambi facevano le guide turistiche nel safari. Da una prima ipotesi, ancora tutta da verificare, sarebbero stati uccisi perché scambiati per bracconieri. E ci sono delle novità sull'omicidio di Giulio Regeni. Nell'incontro tra il procuratore generale egiziano Nabil Sadek e il procuratore della Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone, che è andato in Egitto, le parti hanno scambiato importanti informazioni e si sono dette d'accordo per incrementare la reciproca cooperazione, per definire la realtà dei fatti e per arrivare a individuare i responsabili della morte del ricercatore italiano. Lo si legge questo nel comunicato congiunto diffuso dalla procura egiziana, firmato da Pignatone e Sadek. Chissà, sia la volta buona. Insomma, va. India, nell'ennesimo episodio di brutale violenza sessuale in India, sapete, ce ne sono costantemente contro le donne, contro le bambine. L'ultimo, la scorsa settimana, una adolescente violentata e poi bruciata viva. Un giovane di 17 anni ha stuprato ieri sera a Ludhiana, stato settentrionale del Punjab, una bambina di 3 anni, cercando poi di ucciderla tagliandole la gola. La piccola, scrive oggi l'agenzia di stampa PT, è stata soccorsa dal padre, che è rientrato in casa, ha dovuto sfondare la porta di una stanza chiusa a chiave dove il minorenne l'aveva abbandonata sanguinante. La bimba è ora ricoverata in ospedale, dove i medici non disperano di salvarla. Siamo di nuovo in Italia, parliamo dei dati Istat sulla povertà. Il fenomeno della povertà assoluta riguarda circa 1,5 milioni di famiglie nel 2014. 7 italiani su 100 sono profondamente poveri e la metà di loro vive al sud, cioè oltre 4 milioni e 102.000 individui, il 6,8% dell'intera popolazione vive in condizioni di povertà assoluta. I dati Istat risalenti al 2014 stimano infatti in questo stato 1.470.000 famiglie residenti in Italia, il 5,7% del totale. E quanto ha ricordato Cristina Freguia, direttore centrale delle statistiche socio-economiche dell'Istat, in un'audizione davanti alla Commissione Occupazione e Affari Sociali della Camera dei Deputati per discutere del DDL Povertà. E ha sottolineato la posizione favorevole dell'Istat alla rivisitazione delle politiche socioassistenziali, un punto dolente soprattutto per il Sud. Dove si stimano in condizioni di povertà circa 704.000 famiglie, si tratta del 45,5% del totale dei poveri assoluti. La ricetta per combattere la povertà: maggiori risorse in un paese in cui tra il 2010 e il 2013 si è registrata una diminuzione del 4% di quelle destinate dai comuni alle politiche di welfare. Prima aumentavano del 6% all'anno e in Italia si spende meno che nel resto d'Europa, 10% contro il 20% in Francia, Germania e in media nell'Unione Europea. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Parliamo adesso di un lutto nel mondo dello spettacolo. Ah, proprio lei cercavo, lei non sta sull'elenco, lei deve andare giù. Sulla terra? No, all'inferno, a meno che... A meno che? A meno che lei non sia un poeta, perché qui una volta... Quella c'è che sentite un in un popolare spot televisivo è la voce dell'attore Riccardo Garrone, che è morto a 90 anni dopo una carriera lunga, più di mezzo secolo, che l'ha fatto entrare nella storia della commedia italiana. Fino alle serie TV ha lavorato Garrone con tutti i grandi nomi, da Fellini nella Dolce Vita, Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, e in televisione aveva partecipato anche alla prima edizione di Un Medico in Famiglia. Per chiudere, si riapre o si chiude, a seconda di come deciderà la procura, il caso Pantani, nel senso che si parla di un'intercettazione in cui qualcuno dice che la camorra ha cercato di fermare Marco Pantani. Sapete che è una storia infinita questa. Ci torneremo verso la fine di questa puntata di Effetto Note. Abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare. Prima di questa pausa, per aggiornare chi viaggia, sto vedendo un sacco di vostri messaggi sulla polemica scaturita dalla frase di Bertolaso su Giorgia Meloni. E anche sull'interrogativo, quindi, che vi ponevo: secondo voi sono duri a morire gli stereotipi sulle donne in politica, come anche altrove, ma in particolare in politica, dove c'è potere, dove c'è rappresentanza? Elena scrive sulla pagina Facebook di Effetto Noti: gli stereotipi sulle donne sì, esistono, ma per quanto riguarda Milano, la candidata dei 5 Stelle doveva andare per la sua strada senza farsi condizionare. In fondo, quasi tutti i politici vengono scherniti. Enzo scrive: non penso proprio che ci siano questi stereotipi. La Clinton molto probabilmente diventerà presidente degli Stati Uniti e poi in Europa il politico più importante è la Merkel. Nel mio piccolo, dice Enzo, è da molti anni che ho delle cape donne a casa mia con moglie e due figlie, devo fare come vogliono loro, altrimenti è una continua discussione. Non capisco seriamente questa continua lamentela da parte delle donne. L'unico stereotipo è Bertolaso, dice Enzo, piuttosto ottimista. Poi invece sulla pagina Facebook, i messaggi al 349-238-6666. Leonardo scrive: tutti colgono un senso negativo nelle parole di Bertolaso, io no, strumentalizzare lo sport preferito dai media. Questa quindi è la lettura di Leonardo. Poi un altro messaggio: purtroppo gli stereotipi ci sono e molto spesso sono ingenuamente alimentati proprio dalle vittime. L'esempio è quello del candidato sindaco di Milano, diciamo della candidata sindaca, che per non dire che non è appoggiato dal suo partito ha inventato questa storia degli insulti. E questa è Patrizia Bedori, è candidata a Milano 5 Stelle, che ha detto: mi hanno chiamata grassa, mi hanno chiamata brutta, basta, non ce la faccio più con questa pressione negativa. Qualcuno vocifera che sia stato Casaleggio invece dietro le quinte a dire ritirati, perché insomma la candidatura è piuttosto debole. Comunque insomma, al di là di questo, gli insulti ci sono effettivamente stati. Cosa ne pensate? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Continua ad arrivare un flusso, un fiume di vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia gli sms al 349-238-6666 a proposito di questa nuova polemica nella politica italiana dopo la frase di Bertolaso, che quando gli è stato chiesto in una trasmissione della 7 che ne dice di vedrebbe vice sindaca Giorgia Meloni, lui ha detto: Giorgia Meloni pensi a fare la mamma, perché sapete che è incinta. E naturalmente questo rinfocola le polemiche, il dibattito sul fatto che, come sempre, per quanto riguarda le donne in politica ci sono sempre degli stereotipi duri a morire. Poi c'è stato anche il caso della candidata del Movimento 5 Stelle a Milano, Patrizia Bedori, che dice oggi di essersi ritirata per i troppi insulti, per le troppe pressioni negative. Dice: mi hanno chiamato brutta, mi hanno detto che sono obesa. E quindi c'è una rivolta, c'è stata un fronte bipartisan di solidarietà nei confronti di Meloni e Bedori, e in particolare anche per esempio la ministra Boschi, che ha detto: quand'è che diranno un uomo non telegenico, insomma, di non fare politica o che si deve occupare del fatto di essere padre non politico. Voi continuate con i vostri messaggi, ecco, per esempio anche su WhatsApp dice questo ascoltatore o ascoltatrice, vediamo se si vede un nome. No, dice: onestamente una donna per essere in quella posizione se ne frega altamente di sentirsi dire che è brutta e grassa, anzi mangia alla faccia loro. Effettivamente, diciamo, di fronte a questo tipo di insulti bisognerebbe rinforzarsi e essere un po' più forte. La Meloni aveva fatto la preziosissima rifiutando la candidatura perché incinta, adesso sarebbe Bertolaso il maschilista, dice un ascoltatore sempre su WhatsApp, si chiama Alessandro. Continuate, nel frattempo vi ricordo, prima di cominciare a scendere un po' nel cuore degli argomenti, quali sono le notizie principali della giornata. I migranti guadano un fiume tra Macedonia e Grecia, 3 morti al confine con la Grecia. Intanto la cancelliera Merkel tira dritto sulla sua politica sui migranti. E poi mamme politica, scoppia il caso, tensione Meloni-Bertolaso, sfogo anche della candidata Bedori a Milano. E avete sentito, ne abbiamo parlato finora. Putin, adesso cominceremo a riparlarne, Putin annuncia il ritiro della Russia dalla Siria, ha fatto una telefonata con Assad, presidente siriano, e pare che insomma si possa trovare una mediazione e cercare di avviare questo processo per la pace. Renzi, tornando alla politica, sfida la minoranza Dem, ci vediamo al congresso, dice. L'ultima novità dall'Egitto: Regeni litigò con uno straniero, l'ultima ennesima versione, anche se Pignatone e il procuratore egiziano hanno firmato una specie di accordo di collaborazione. Vedremo come va. E poi Pantani in un audio l'ipotesi dell'intervento della Camorra. Saluto subito Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Bentornata Barbara. Grazie, buonasera a tutti. Politica, quindi, diciamo, di questo fine settimana che ha alimentato molto la discussione, perché intanto la bufera, dicevamo, che ha travolto Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, che doveva essere più o meno il candidato ufficiale del centrodestra per Roma, però Salvini, dopo un primo accordo, si è smarcato più volte, ha detto non è il candidato della Lega, e dopodiché hanno fatto queste gazebarie nel fine settimana, cioè vari gazebo in giro per la città per chiedere alle romane e romani se quale fosse il loro grado, il loro livello di gradimento di Bertolaso. Insomma, hanno votato circa 50.000 persone, anche se una giornalista del Messaggero raccontava di aver votato almeno 22 volte lei, e pare che, insomma, il successo suo sia stato comprovato di Bertolaso. Però cosa è successo? Che allora, intanto sentiamo che cosa ha detto Brunetta, perché di nuovo Salvini ha riconfermato, dice Bertolaso che di Salvini non è interessato a Salvini, noi non siamo interessati a lui, punto e basta. Quindi ha chiuso definitivamente la porta su Bertolaso. Ma sentiamo Brunetta di Forza Italia. Devo dire, c'è un po' di confusione, minor confusione di quella che c'è a sinistra. A sinistra ce n'è anche di più. A sinistra volano gli stracci, a sinistra gli insulti tra Bersani, Renzi, le varie anime. Devo dire, il centrodestra sta ancora discutendo. Bertolaso non si discute, 45-50.000 romani hanno dato le loro indicazioni. Io ricordo il 12 di febbraio, comunicato congiunto di Berlusconi, Salvini, Meloni per la candidatura di Bertolaso. Però Salvini non ci sta. Fra l'altro, appunto, ieri dicevamo che a Fuori Onda sulla 7 lo stesso Bertolaso ha intervistato, la domanda se ha pensato per caso a Giorgia Meloni come vice sindaca, lei che ieri ha dato la sua disponibilità a correre per il centrodestra a Roma, così ha risposto. Mi sento un disomogeneo. E in realtà, ecco, qui quando dice sono disomogeneo, ma in realtà non è proprio così disomogeneo, perché se vogliamo stare appunto sulla questione degli stereotipi duri a morire, diciamo che è abbastanza omogeneo. Sentiamo. La Meloni potrebbe fare il vice sindaco? No, la Meloni deve fare la mamma, mi pare che sia la cosa più bella che le possa capitare ad una donna nella vita. È definitivo questo. La Meloni deve gestire questa pagina della sua vita, che è una delle pagine per una donna, credo che sia la più bella in assoluto. Non vedo perché qualcuno deve costringerla a fare una campagna elettorale che comunque sarà feroce, e poi nel momento in cui deve incominciare ad allattare, incominciare anche a occuparsi delle buche, della sporcizia, del traffico, dei topi, della microcriminalità, di tutto il resto. Quindi meglio che sia a casa tranquilla. Allora, Barbara Fiammeri, da un punto di vista culturale, ideologico, eccetera, approfondiremo più prima. Però adesso lo scenario a Roma qual è? Brunetta diceva Malcomune e Mezzogiorno stanno peggio a sinistra. È vero che ci sono Bassolino, è stato bocciato il secondo ricorso, ma lui non vuole demordere. E poi per il Movimento 5 Stelle c'è stato il ritiro di Patrizia Bedori a Milano come candidata. Ancora c'è tensione tra maggioranza e minoranza PD. Però a Roma che cosa succede a questo punto? Ma Roma rischia, diciamo che Brunetta mi sembra usi un eufemismo, nel senso, quando dice si discute, no, anche nel centrodestra mi sembra stiano volando gli stracci, e il rischio per il centrodestra è di andare con quattro candidati, nel senso che oltre a Bertolaso ci sono già Storace e Marchini, se si aggiunge anche la Meloni sono quattro, quindi è chiaro che a questo punto il ballottaggio inevitabilmente vedrebbe il PD da una parte e i 5 Stelle dall'altra, visto che secondo i sondaggi sono comunque due partiti che hanno il maggior numero di consensi. La destra poteva ambire al ballottaggio e anche alla vittoria se avesse puntato su una sola candidatura forte. Così non è, e siamo a un passo ormai dalla candidatura della Meloni. Domani mattina si riunisce il vertice del partito della Meloni, Fratelli d'Italia, che probabilmente, ancora non c'è una certezza assoluta, dovrebbe annunciare la candidatura della Meloni. Berlusconi d'altronde non ha alcuna intenzione di retrocedere, anche perché diciamo che questa vicenda, almeno così ne sono convinti dentro Forza Italia e lo stesso Berlusconi, l'obiettivo non è tanto Bertolaso, secondo appunto Forza Italia, ma la leadership di Berlusconi. Berlusconi che era uscito dalla trattativa sulle candidature come di nuovo colui che dà le carte, no? Imponendo di fatto Stefano Parisi a Milano e Guido Bertolaso a Roma, perché è vero quello che dice Brunetta, che il 12 febbraio tutti e tre i leader del centrodestra avevano appoggiato la candidatura di Bertolaso. E Barbara, scusami, prego. No, dicevo, poi c'è stato il dietrofront di Salvini, come sappiamo, per la famosa dichiarazione sui Roma, ma insomma, quando le partite diventano così dure, insomma, non è pensabile. Pensiamo che per esempio Salvini non ci ha messo molto poi a ripensarci sull'appoggio del partito di Angelino Alfano, che lui tanto detesta, su Milano, per far convergere tutti su Parisi. Quindi è chiaro che poi, se si vuole raggiungere un obiettivo, in questo caso un obiettivo di portare la destra al ballottaggio, le precisazioni successive sui Rom fatte da Bertolaso poteva cogliere Salvini. Così non è stato, e quindi probabilmente un fondo di ragione Berlusconi lo ha quando dice: sono io l'obiettivo, no, altro che Bertolaso. Invece Barbara, per quanto riguarda Milano, abbiamo sentito che Patrizia Bedori si ritira perché non regge la pressione, dice qualche ascoltatore, per esempio Walter da Milano: la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle ha fatto bene a ritirarsi, ora se non regge la pressione iniziale la politica è un bagno di sangue, purtroppo meglio uscire ora che in corso d'opera, la politica è come ambito mostruoso, dice Walter. Poi Michele da Gorizia: la Bedori ritirandosi però ha fatto il loro gioco, peccato, doveva tenere duro e mandare tutti a quel paese. Qualcun altro invece avanza l'ipotesi che sia stata spinta da dietro le quinte, si immagina a Casaleggio, a ritirarsi, perché alla fine è una candidatura debole, che non è stata neanche granché sostenuta effettivamente finora dal Movimento 5 Stelle, quindi ha trovato questa scusa. Che sia stata insultata è vero, e probabilmente in buona fede è per quello, però a te sembra che forse dall'inizio non c'era convinzione nel Movimento 5 Stelle? Cioè, il Movimento 5 Stelle, quando fa, quando, anche nelle passate elezioni amministrative, ma nelle stesse elezioni parlamentari, cioè, non punta sui candidati, no? Quindi anche queste sorte di indicazioni che loro dicono vengono dalla base e sono un po', diciamo, ridicole, perché poi se andiamo a vedere i voti delle persone, che neanche tutti i sostenitori dei 5 Stelle, cioè quegli iscritti, votano in questi casi, cioè parliamo in alcuni casi di poche centinaia di voti nell'indicazione di un candidato, per cui arriva un mister o una miss nessuno. Questo, diciamo, ne avevano fatto un vanto i 5 Stelle. Però il problema è che quando poi devi governare una città, gli elettori vogliono sapere chi hanno di fronte, e probabilmente la Bedori non è riuscita nella sua campagna elettorale iniziale ad aumentare il gradimento, cosa che invece per esempio sta facendo la Raggi a Roma, anche a Torino, sì, la candidata anche a Torino, l'Appendino, no? A Torino, sì, sì. Però ecco, sia la Raggi che l'Appendino avevano, diciamo, alle spalle quantomeno una consiliatura, no? Mm-hmm. Nel consiglio comunale, in cui si erano abbastanza si erano anche distinte per alcune battaglie, quindi diciamo erano più conosciute almeno dai fan del Movimento 5 Stelle. E comunque è chiaro che la sensazione che si ha è che il Movimento 5 Stelle, poi vediamo anche il caso di Napoli, loro a Napoli non hanno ancora un candidato, si dice c'è stato lo scandalo di Quarto, ma parliamo di un partito che è, se togliamo i voti degli eletti all'estero, in Italia i 5 Stelle alle ultime politiche sono il primo partito, se togliamo appunto i voti all'estero che hanno consegnato poi al PD la vittoria, però cioè è un partito che poi al momento, quando deve fare delle scelte, dice sceglie il popolo, sì, però il popolo non è che sceglie con poche centinaia di voti, cioè, non mi sembra questo il sistema per dire sceglie il popolo. Certo, neanche quello del PD, dove vediamo appunto che ogni primaria diventa una tensione. Barbara Fiammeri, ti ringrazio, adesso con Bassolino vedremo come va a finire, ma adesso ci concentriamo invece sulla questione più culturale. Grazie Barbara. Grazie. La pressione mediatica, io sono una cittadina comune, sono una cittadina prestata alla politica, quindi non sono una che si è seduta sulla poltrona e che vuole diventare sindaco per potere, è semplicemente mi hanno scelto e io mi sono messa in gioco. La pressione mediatica che tutto questo ha provocato intorno alla mia persona non la reggo. Questa è la ragione, insomma, vi dicevo, con cui Patrizia Bedori del Movimento 5 Stelle, candidata a Milano, si ritira. Ne parliamo con la professoressa Donatella Campus, docente di comunicazione politica all'Università di Bologna, appena pubblicato per Il Mulino Lo stile del leader, poi ha un sacco di pubblicazioni, tra cui L'immagine della donna leader, La politica non è affare da uomini. Professoressa Campus, buonasera. Buonasera a lei. Ha sentito di tutta questa polemica, quindi, no? sulle candidate donne, anche se è vero che ci sono diverse candidate forti in città molto importanti, però lei come commenta questa, quello che chiama scivolone, gaffa di Bertolaso su Meloni, anche la solidarietà? Per esempio Boschi dice: quando è che chiederanno a un candidato uomo di ritirarsi perché deve fare il padre o perché non è telegenico? Mentre la ministra Lorenzin dice: questo non è un paese per le donne, ciò che sta accadendo in questi giorni è incredibile e rivela una misoginia di fondo. Continua a esserci questa misoginia di fondo? Ma indubbiamente in parte sì, cioè chiaramente Bertolaso ha tirato fuori un argomento che è un argomento ricorrente non solo in questo paese, devo dire. C'è il pregiudizio se una donna, soprattutto appunto se madre di figli piccoli, quindi che si presuppone debba accudirli, sia anche in grado di fare politica. E quello che io ho trovato anche interessante della dichiarazione di Bertolaso è il fatto che lui ha come esposto l'argomento, diciamo, in maniera quasi protettiva nei confronti della Meloni, no? Perché ha detto: ma la Meloni lasciamola stare, cioè lasciamola appunto fare la mamma, perché non vorrete costringerla a questa campagna elettorale che sarà dura, insomma, di impegni gravosi, che è una forma che richiama quello che tecnicamente si chiama un po' il sessismo benevolente, cioè quella situazione in cui le donne sono anche blandite, magari anche incoraggiate, se accettano di stare all'interno, diciamo, dei ruoli tradizionali. E quindi se invece vogliono uscire dai ruoli tradizionali, le cose sono ben diverse, quindi in fondo è un modo appunto di blandire, ma al tempo stesso di limitare e anche di escludere. Chiarissimo, quindi un po' di paternalismo classico. Sì, ricordo, no? Sì, entra in gioco anche questa componente. Senta, ma comunque le reazioni pare siano state bipartisan, quindi non voglio dire proprio gli anticorpi, perché comunque insomma c'è una cultura profonda, magari chissà quanti hanno pensato anche questa cosa e non l'hanno detta, però mi pare che le reazioni dal punto di vista della politica ci siano state piuttosto forti. Nel caso anche una certa sensibilità inizia a esserci anche su questi argomenti, questo è vero. Nel caso della Bedori invece, almeno lei dice che è perché le hanno mosso insulti piuttosto pesanti, che è obesa, che è brutta. Anche questo fatto che le donne devono essere per forza apprezzabili esteticamente, no? Si nota sempre il tailleur della Merkel, se è più o meno pittoresco, come è vestita quella, se ha i tacchi, come la sua scollatura, com'era quest'estate in costume, no? Professoressa Campus. Sì, ma è interessante infatti che questi due casi, cioè sia le dichiarazioni di Bertolaso sia il caso della Bedori, mostrano che per le donne ci sono due temi critici, due punti critici, cioè la famiglia e l'aspetto. Che appunto nei casi dei politici uomini magari sono comunque trattati, ma in maniera appunto non critica, cioè, e mentre invece per le donne spesso questi diventano anche ragione appunto di imbarazzo, appunto, perché nelle parole della Bedori si sente che lei si è trovata a disagio, e quindi a volte le campagne elettorali effettivamente per una donna possono essere vissute come più difficoltose, proprio perché si sentono più tirate in causa sul personale, proprio su questi aspetti legati all'aspetto e alla famiglia. La famiglia è sempre appunto un punto critico in entrambi i sensi, perché per esempio nel caso della dichiarazione di Bertolaso e nel caso della Meloni parliamo appunto della mamma, no? Cioè del problema dell'essere madre, ma anche le donne senza figli spesso sono criticate, perché ci si chiede come mai hanno rinunciato quindi ad esprimere la loro femminilità, forse perché troppo ambiziose, cioè, quindi diciamo che non c'è mai una situazione davvero ideale infatti. Sei esposta a critiche da ogni parte, purtroppo, ecco, bisogna essere forti il triplo degli uomini, bisogna comunque essere forti il triplo degli uomini, cominciamo anche dai media magari a dare meno importanza a certi aspetti, e questo è anche il problema, perché anche se Mi scusi, non volevo interromperla, però il punto è anche che se questi temi non vengono neppure appunto chiamati in causa in modo esplicitamente critico, comunque sono degli elementi di distrazione, cioè si parla del vestito che la donna in politica indossa, non si parla delle sue idee. Dei contenuti. Esatto. Grazie, grazie professoressa Donatella Campus. Grazie, grazie a molte. Lei, buona serata. Buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E siamo ancora insieme, come sempre, Roberta Giordano con voi. Proseguiamo allora con i nostri temi. Tra poco vi ricordo le notizie più importanti. Continuano i vostri messaggi sulla polemica relativa alla frase di Bertolaso su Giorgia Meloni e anche quello che è successo con la candidata Bedore del Movimento 5 Stelle a Milano. Sono duri i stereotipi a morire, i stereotipi sulle donne in politica e non solo. Scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Gli stereotipi no, gli imbecilli sì. Poi continuate anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Moltissimi i vostri messaggi. Tra poco darò ancora spazio. Però intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21, le notizie più importanti. Siria, Putin annuncia il ritiro delle truppe, ne parleremo tra pochissimo. Donne politica, bufera su Bertolaso che dice che Meloni deve pensare a fare la mamma e a Milano la candidata dei 5 Stelle, Bedori, si ritira per gli insulti. Migranti, la polizia ferma centinaia di profughi al confine tra Grecia e Macedonia. Turchia, il governo turco accusa il PKK per la bomba ad Ankara, 11 i fermi. Zimbabwe, giallo su due italiani uccisi in una riserva di caccia, forse scambiati per bracconieri. Ora parliamo invece della Siria, di questo annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che dice che ha ordinato, insomma, il ritiro della maggior parte delle forze russe dalla Siria, motivando questa decisione con l'intento di facilitare i negoziati ripresi oggi a Ginevra tra governo siriano e opposizioni. Dice il capo del Cremlino, gli obiettivi sono stati raggiunti, quelli che ci eravamo posti, le basi russe in Siria entrano a questo punto in modalità routine, questo è il comunicato, e poi il presidente siriano Assad ha detto a Vladimir Putin, se questo si riferiscono le agenzie, in una conversazione telefonica di essere pronto a iniziare il processo politico nel paese al più presto possibile. Ne parliamo con Alberto Negri. Ciao Alberto, inviato speciale del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti voi. Effettivamente un annuncio, tu sei addentro alle cose, non ci si aspettava. Che cosa significa questa presa di posizione di Putin e il ritiro delle truppe russe dalla Siria? Ma io credo che sia una decisione dettata da un fatto pratico, il primo, cioè che è riuscito a mantenere al potere Bashar Assad con l'intervento iniziato il 30 settembre. L'ingresso della Russia ha ribaltato le sorti del conflitto, questo non c'è dubbio. E questa è la ragione per cui oggi può anche in qualche modo iniziare un disimpegno dalla Russia, dalla Siria, un disimpegno peraltro che implica comunque il fatto che sul campo la flotta navale, quella aerea resteranno e anche quella missilistica, presumo, di cui non hanno parlato nel comunicato. Il secondo motivo è che probabilmente Putin ha raggiunto qualche accordo con gli Stati Uniti, immagino, sotto banco, senza che sia stato detto da nessuno. Gli americani non hanno dato alcuna reazione all'annuncio di Putin, ma è evidente che forse comincia anche un negoziato tra Washington e Mosca per vedere di uscire anche da quel tunnel delle sanzioni dove si è infilata la Russia dopo la storia della Crimea e dell'Ucraina. E questo sì, tu dici un accordo sotto banco, una mediazione, però della Siria che ne sarà? Questo, cioè, è pacificata? È davvero verso una via di pacificazione? Oppure questo ritiro non serve certo a questo, non ha raggiunto questo obiettivo, Alberto? Ma in realtà, tra l'altro, Mosca nel suo comunicato ha detto che resterà appunto la flotta aerea e quella navale per monitorare il cessate il fuoco. Questo cessate il fuoco è limitato, come sappiamo, da alcune fazioni in campo. Non comprende il califfato, non comprende Jabhat al-Nusra, che è un gruppo affiliato ad Al-Qaeda. E poi c'è un'altra cosa che ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, che i russi sono comunque pronti a collaborare con gli altri per la presa e la caduta di Raqqa, che è la capitale del califfato in Siria. E evidentemente c'è anche la questione di Mosul sullo sfondo, cioè l'altra centro dell'ISIS molto importante in Iraq. E credo che questa guerra non finirà fino a quando non saranno cadute né Iraq né Mosul. Grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Grazie a voi. Ciao. E ancora i vostri messaggi, stavo guardando per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Roberto dice: ma gli stereotipi esistono sulle donne e basta, non c'entra cosa, qual è il lavoro che facciano, però la migliore arma è l'indifferenza, non farsi coinvolgere nella macchina del fango che in politica può essere devastante, suicida. Enrico: assolutamente sì, ci sono gli stereotipi, le donne in politica sono delle marziane, in America si candida una donna presidente degli Stati Uniti dopo un presidente di colore, mentre qua il dibattito è la Boschi è bella, quindi un'oca, povera Italia, dice Enrico. Continuate, 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto nel momento giusto con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Scrive Ilaria sulla pagina Facebook di Effetto Notte: e se sei bella sicuramente sei arrivata in politica per vie indirette, se sei brutta aspettati di essere dileggiata per tutta la durata della carriera politica. Certo, per le donne dura, però in misura ridotta accade anche agli uomini, e cita la gobba di Andreotti, la statura di brunette, eccetera eccetera. Ilaria, anche se è una cosa un pochino diversa. Michele dice: Roberta Giordano, benvenuta nell'Italia maschilista omofoba, che ci aspettiamo noi donne omosessuali, questo è il livello della nostra classe politica. Vi ricordo però velocemente, prima dei prossimi temi, le notizie più importanti di oggi, che sono appunto l'annuncio di Putin del ritiro delle truppe russe, almeno per la gran parte, dalla Siria. Forse si dovrebbe così innescare piano molto lentamente il processo di pace. Poi i migranti che guardano un fiume, 3 morti al confine con la Grecia, e la cancelliera Merkel che tira dritto, dice: non intendo cambiare la mia politica sui migranti. Mamme e politica in Italia, scoppia il caso. Tensione Meloni-Bertolaso, anche lo sfogo della candidata del Movimento 5 Stelle Bedori a Milano, che si ritira perché dice: mi hanno definita brutta e obesa. E poi Renzi che sfida la minoranza Dem, ci vediamo al congresso. Sapete che continua questa tensione all'interno tra la maggioranza e la minoranza del PD. L'ultima versione dall'Egitto: Regeni litigò con uno straniero, giallo su un video. Tensione con l'Italia, anche se sembra che Pignatone e il procuratore egiziano abbiano firmato un documento d'intesa, insomma, di collaborazione. E ora c'è l'appuntamento con YouZone, la rubrica che propone un dialogo tra elettori e rappresentanti nel Parlamento europeo. Sul sito di Radio 24 poi potete trovare i contatti elettronici. YouZone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Stefano. Cognome: Maullu. Età: 53. Nato a Milano. Eletto in Lombardia. Con quanti voti? 35.000. Partito politico: Forza Italia. Gruppo politico: Partito Popolare Europeo. Segni particolari: tenace. Quante lingue parla? 2, con inglese in costante miglioramento. Competenze europee in 10 parole: cultura, turismo, giovani, sport, mercato digitale, working group del Mediterraneo, delegazione per la Russia e politiche economiche per le piccole e medie imprese. Benvenuto nella YouZone di Radio 24. Agenda digitale europea, la rete più veloce della macchina europea? La rete ha bisogno della macchina europea per correre velocemente, ha bisogno di grandi investimenti da parte di tutti i paesi, ha bisogno del fatto che i fondi comunitari vengano spesi al meglio, questo grazie anche al fatto che l'agenda digitale è una delle priorità della Commissione europea. Per Eurostat, da quando c'è la moneta unica, le regioni del nord Italia sono uscite dalla top 30. Colpa dell'euro? Ma non credo, colpa di una crisi economica che ha colpito tutti, che ha consentito però ad esempio alla regione Lombardia di continuare a essere tra i 4 motori d'Europa, e colpa di un paese che ha troppe tasse e troppi vincoli burocratici per poter far esprimere le imprese al meglio. Europa e Russia, amiche e nemiche? Ma credo prima di tutto partner strategici, fondamentalmente un legame culturale ed economico che non deve essere interrotto. L'Europa ha bisogno di materie prime di qualità, la Russia conta 145 milioni di abitanti, è un bacino d'utenza straordinario per i nostri prodotti. Occorre fare in modo che le sanzioni siano eliminate il più presto possibile. Europa e Turchia, in 30 secondi la sua visione. Ma io credo che la Turchia abbia avuto un'involuzione democratica evidente a tutti. Da paese laico si è trasformato in una deriva autoritaria islamica che Erdogan ha accentuato di molto, e credo che questo atteggiamento di assoluto ricatto fatto sulla pelle dei migranti, dei tanti disperati che cercano di sfuggire alle guerre, non crei le migliori condizioni perché la Turchia possa entrare in Europa. Io spero che ci si possa ritrovare tra qualche anno con una Turchia cambiata, perché le condizioni di democrazia non sono all'altezza di quello che noi consideriamo. consideriamo accettabile. Meglio fare politica in Italia o in Europa? Io credo che ormai non ci sia una differenza così marcata. L'agenda nazionale è segnata da tutto ciò che in Europa viene affrontato. L'Europa nei prossimi 12 mesi? Credo che si debba riaprire il dialogo con la Russia e penso anche che l'Italia in Europa debba garantire che l'Europa stessa avvii un grande piano per il Mediterraneo, con una politica europea più decisa e soprattutto che renda protagonista il nostro paese. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che le guerre cessino di essere tali e che si possa pensare a ricostruire quello che è sempre stato un grande bacino di influenza per il nostro paese. La sua battaglia vinta. Essere arrivato in Europa dopo una gavetta che mi ha visto fare tutti i passaggi istituzionali. Tre aggettivi che la caratterizzano. Tenace, determinato e sognatore. Un sogno nel cassetto. Un'Europa unita che abbia la possibilità di essere protagonista in un mondo sempre più globalizzato. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Vanna Sascha, poche sere fa, ha fatto una dichiarazione. Dicendo che un camorrista di grosso calibro gli avrebbe detto: guarda che il Giro d'Italia non lo vince quando non arriva a fine, perché sennò cash banca tutte cose, perché si hanno guardato tutto quanto con la IS. E quindi praticamente la camorra ha fatto perdere il Giro a Pantani, cambiando le provette e facendolo risultare dopato. Un'intercettazione questa che fa calare l'ombra, fa aleggiare l'ombra della camorra sul caso Pantani, Dario Ricci, che è una storia infinita. Cos'è questa novità? Sì, diciamo che i contorni di questa vicenda erano in parte già stati rivelati, ma chiaramente il valore documentario di quest'audio diffuso oggi da Mediaset Premium Sport è quanto mai importante, perché è contenuto in quel fascicolo che presentato dalla procura di Forlì, che di fatto però ha richiesto l'archiviazione rispetto al processo, a questa branca del processo Pantani, perché per prescrizione dei termini. Però di fatto il procuratore e il pubblico ministero ha ricostruito questa catena di comando camorristica che avrebbe alterato il test ematico esattamente di Pantani in quel famigerato 5 giugno del 99, lo ricordiamo, la penultima tappa del Giro d'Italia a Madonna di Campiglio, un giro che Pantani aveva dominato come il precedente, che si apprestava a vincere, e invece la positività che portò alla sua esclusione dalla corsa. Ebbene, vi sarebbe stato un medico minacciato per costringerlo da parte della camorra ad alterare appunto il risultato di questo test ematico, un giro di scommesse sulla vittoria di Pantani di allora miliardi di lire, che sarebbe stato insostenibile in caso di effettiva vittoria, e quindi, come abbiamo sentito in questa intercettazione, questo camorrista intercettato confermerebbe l'ipotesi che già era stata presentata e avvalorata in qualche modo da Vallanzasca, di una camorra che avrebbe agito per escludere Pantani. Ora, di fatto il reato è in prescrizione, quindi non c'è la possibilità di individuare gli effettivi colpevoli, ma chiaramente sia la famiglia che i legali rappresentanti proveranno tutte le strade per cercare almeno di provare a riscrivere la vera verità su mi questa vicenda. Minimo, mi sembra il minimo, è grave che ci sia la prescrizione. Grazie Dario Ricci. Grazie a voi. Ci sentiamo alle 22.